Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti a questo appuntamento con l'Europa. Partiamo dall'incontro di questa mattina, il tema è l'energia, ma una presenza importante con quella che è tipica del bilaterale USA-UE, dunque Kerry dice che gli Stati Uniti vogliono impedire che l'energia venga usata come arma politica e strumento di aggressione. La crisi in corso con la Russia sottolinea la necessità di garantire la sicurezza energetica non solo dell'Ucraina ma anche dell'Europa. Così il segretario di Stato americano a conclusione di un consiglio energia appunto piuttosto animato e molto concentrato ovviamente sul tema degli eventi nell'Europa dell'Est. A parlare di Europa anche questa mattina il presidente di Confindustria, che ha presentato quelle che sono le 10 priorità per un'Europa della crescita contro il diffuso euroscetticismo, un tema che rischia di prendere il sopravvento e che impone all'Unione Europea di cambiare passo e intraprendere. Così dunque il manifesto presentato da Confindustria in vista delle elezioni europee. A proposito di elezioni, sono 7 commissari UE, tra i quali vicepresidenti Tajani e Olli Rehn, che hanno annunciato di correre alle elezioni europee. L'annuncio è stato fatto dal presidente della Commissione Barroso. Ad eccezione del belga Karel De Gucht, tutti gli altri prenderanno un periodo di congedo dal 19 aprile al 25 maggio, dunque per prepararsi al voto di fine maggio. Ancora a Bruxelles è in corso un altro importante vertice, riguarda Unione Europea e Unione Africana. Nel 2012, pur essendo in piena crisi, l'UE da sola ha dato all'Africa il 45% di tutti gli aiuti complessivi allo sviluppo. Parliamo di una cifra di oltre 18 miliardi. Il vecchio continente non può permettersi di lasciare altro spazio alla Cina, che dal 2009 è diventato il principale partner commerciale dei paesi africani. Il servizio. 90 delegazioni provenienti da altrettanti paesi, 65 tra capi di Stato e di Governo e tra loro anche il Presidente del Consiglio Renzi. Un summit imponente per una svolta o almeno un consistente passo in avanti nelle relazioni tra i due continenti. Al centro immigrazione, sicurezza, sviluppo e relazioni per contrastare la presenza di Pechino ormai fissa sul suolo africano. Il vertice parte però già con qualche pedina mancante. Assente il Presidente sudafricano Zuma per non meglio precisati impegni. Un episodio che si inscrive nelle contestazioni che hanno accompagnato il vertice. La scorsa settimana a chiederne il boicottaggio era stato lo Zimbabwe. L'Europa non ha concesso il visto alla moglie del presidente Mugabe. Entrambi sono stati dichiarati persone non gradite nell'Unione. Anche il Sudan ha protestato perché Bruxelles non ha invitato il suo presidente, Omar al-Bashir, sul quale pendono mandati d'arresto della Corte Penale Internazionale dell'Aia per crimini contro l'umanità. La situazione politica non è facile e nel frattempo l'Africa continua ad arrancare. L'Europa è in prima linea negli aiuti, in cambio chiede una maggiore collaborazione sulla lotta all'immigrazione clandestina. Bruxelles mette sul piatto una maggiore apertura a flussi legali e controllati e parte dei suoi finanziamenti a favore di occupazione e formazione giovanile. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri dall'Eurogruppo era arrivato il via libera ai nuovi aiuti per Atene, una nuova tranche che porta complessivamente a 8,3 miliardi di euro, di cui 6,3 già alla fine di questo mese. Oggi dal presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem arriva l'invito, il monito a Italia e Francia perché non rinvino il rispetto degli obblighi di bilancio concordato. Il presidente Dijsselbloem ha rilevato che Italia e Francia sono entrambi grandi paesi centrali per l'Eurozona e quello che fanno, ha detto, è cruciale per il patto di stabilità. Ha dunque concluso dicendo: mi aspetto che tutti rispettino gli obblighi presi. Bene, con questo è tutto con il nostro appuntamento con l'Europa, che come sempre torna questa sera nello spazio di Effetto Notte e naturalmente domani a partire dalle 14. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.